Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un genere che forse è particolarmente adatto per le vacanze, la biografia, un genere che ci aiuta a riscoprire personaggi, a capire la storia, ad approfondire le conoscenze di opere letterarie, a vedere con altri occhi anche i luoghi. E allora cominciamo con un grande pensatore dell'umanesimo, il francese Montaigne, che è al centro dello studio di Sarah Bakewell, Montaigne, l'arte di vivere, pubblicato da Fazzi, 446 pagine, 19 euro, tradotto da Thomas Fazzi. Montaigne, come scrive l'autrice, ha elaborato un'idea fondamentale, quella di scrivere se stessi per offrire agli altri uno specchio in cui riconoscere la propria umanità. E lo fece Montaigne nelle sue riflessioni sparse, che noi raccogliamo sotto il titolo di saggi. Lì si occupò di tutto, di elementi apparentemente stravaganti e slegati, che tutti insieme però ci offrono la sua risposta alla domanda: come vivere? E lo fece Montaigne con una capacità strabiliante di scavare nell'animo umano. Perciò, scrive la Bakewell, leggere Montaigne equivale a sperimentare una serie di shock di familiarità che cancellano in un istante i secoli che lo separano dal lettore del XXI secolo. I suoi lettori, infatti, continuano a riconoscersi in lui e i suoi saggi, aggiunge, sono più di un semplice libro, sono una conversazione attraverso i secoli tra Montaigne e tutte le persone che si sono imbattute in lui, una conversazione in continua evoluzione che si rinnova ogni volta che un nuovo lettore si domanda incredulo: come fa a sapere tutte queste cose di me? La biografia della Bakewell si sviluppa allora in 20 tentativi di risposta a quella domanda: come vivere? 20 tentativi illustrati attraverso il pensiero, le esperienze, le fonti e l'atteggiamento di Montaigne. Il libro è bello perché ci fa scoprire in sostanza un amico la cui vita scorse tranquilla, segnata principalmente dall'impegno pubblico come sindaco di Bordeaux, un incarico che non lo fece deflettere dalle sue regole che qui ritroviamo: un temperato scetticismo, un'istintiva avversione per la violenza, una capacità di stare con gli altri accettandone anche i costi e un interesse non fanatico per le lettere e la lettura. Sentite per esempio queste righe sull'atteggiamento di Montaigne nei confronti dei libri. Un atteggiamento che fu dominato da un difetto che Montaigne riconosceva e ammetteva di avere, che spesso noi stessi invece non vogliamo riconoscere, quello di dimenticare tutto quello che leggeva. Montaigne sostiene che le volte in cui riusciva a trovare la forza per sfogliare un libro, si dimenticava subito quasi tutto ciò che aveva letto. La memoria è uno strumento di straordinaria utilità e senza il quale il giudizio fa a fatica il suo ufficio, scrisse, per poi aggiungere: a me manca del tutto. Ammetteva che era una seccatura perdere tutte le sue idee più interessanti semplicemente perché gli venivano in mente mentre era a cavallo e non aveva un pezzo di carta su cui trascriverle. Gli sarebbe anche piaciuto ricordare meglio i suoi sogni. Citando Terenzio, scrisse di sé: «Sono tutto crepe e perdo da ogni parte». Montaigne prendeva spesso le difese degli smemorati. Quando doveva parlare in pubblico, Montaigne cercava di apparire il più schietto possibile e usava una profonda noncuranza e gesti fortuiti e non premeditati, quasi nascenti dalle circostanze presenti. In particolare evitava di ricorrere a qualunque tipo di elenco, perché non solo era noioso, ma anche pericoloso. Nella maggior parte dei casi uno finiva per dimenticarsi i punti o per dilungarsi troppo. Già al suo tempo c'era chi si rifiutava di credere che la sua memoria potesse veramente essere così pessima, e questo lo irritava a tal punto che se ne lamentò in uno dei suoi saggi. Senza dubbio la memoria di Montaigne era migliore di quanto non ammettesse. Allo stesso tempo, i problemi di cui parlava sono piuttosto comuni. Fanno parte della condizione umana e potrebbero anche essere visti come un prodotto della sua educazione agiata e della sua avversione per tutto ciò che comportava dei sacrifici. Inoltre, la sua apparente modestia in fatto di memoria può essere letta come un'esaltazione indiretta di altre virtù che riteneva più importanti. Una di queste, ironicamente, era l'onestà. Come recitava il vecchio proverbio, chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Se Montaigne era troppo smemorato per inventarsi delle bugie credibili, quello che diceva doveva essere vero. Se Montaigne forse gigioneggiava sulla sua memoria, uno che la memoria l'aveva prodigiosa, anzi proverbiale, fu Pico della Mirandola, l'altro umanista, questo italiano di poco precedente a Montaigne, che visse per poco più di 30 anni tra il 1463 e il 1494. Pico non fu soltanto un mostro di memoria, ma uno dei protagonisti più significativi dell'umanesimo italiano, e gli sono stati dedicati di recente due libri. Uno più breve, più recente, di Maria Teresa Fumagalli Beano Brocchieri, storica della filosofia. Il libro si intitola semplicemente Pico della Mirandola, è pubblicato dalla Terza, 154 pagine, 10 euro. E uno più lungo, pubblicato già da un anno, da un altro accademico, questa volta un giudaista, Giulio Busi, e si intitola Vera relazione sulla vita e i fatti di Giovanni Pico, Conte della Mirandola, pubblicato da Ragno, 216 pagine, 15 euro. Come mai tanta attenzione per Pico della Mirandola? Beh, certamente il personaggio la merita, era nobile, Pico, giovane, bello, coltissimo e protagonista di una delle svolte che hanno fatto l'uomo moderno. Quale leggere di questi due libri? Io non ve lo dico. Sappiate che il primo è un saggio molto colto, ma altrettanto gradevole e per nulla iniziatico, specialistico. Ha un carattere tradizionale, quindi ci offre un esame dello sviluppo della vita e del pensiero del giovane Conte, che era dotato di una personalità carismatica e talvolta contraddittoria, aperto com'era alle suggestioni provenienti dalle fonti più varie, per esempio la cabala ebraica. E proprio su questo aspetto verte il secondo libro, che assume una forma diversa. Questo infatti è un saggio non saggio, come viene scritto all'inizio, un romanzo non romanzo, scandito da una serie di tappe alle quali corrisponde una data che segna un evento particolare nella vita di Pico della Mirandola, che qui si intreccia direttamente e strettamente con quella di un Flavio Mitridate, un ebreo rinnegato che spinge Pico della Mirandola appunto a studiare la cabala. L'apice drammatico della vicenda cade naturalmente a Roma nel 1489, quando Pico della Mirandola vorrebbe discutere alla corte pontificia le sue conclusioni e invece si trova messo praticamente sotto processo, quasi per eresia, tanto da dover fare poi atto di sottomissione. E proprio questo clima febbrile di continua eccitazione intellettuale il libro rende efficacemente, ponendo i due personaggi, Pico e il rinnegato ebreo, quasi a fare da contrappunto l'uno all'altro. Una ricostruzione appassionante della corte vaticana di una generazione successiva è quella di Sergio Redaelio, giornalista appassionato di storia, che ha pubblicato Pio IV, un pirata San Pietro, Santi e Tagliagole nell'Italia del 1500, Mursia, 262 pagine, 18 euro. Pio IV è al secolo Gianangelo Medici, nato nel 1499, eletto papa nel 1559 e che durerà fino al 1565. Non sarà uno dei pontefici più celebrati, anche per le debolezze umane che del resto non mancavano in quel periodo anche negli alti esponenti del clero. Era famosa in particolare la venalità di questo papa. Spesso discorre d'affari, scrive l'autore, non è un segreto, i contemporanei lo giudicano molto sensibile al denaro, però questo denaro veniva speso anche per fare grandi opere pubbliche e infatti il ruolo di Pio IV è stato importante proprio perché ha dato un grande contributo al rinnovamento urbanistico di Roma. La Roma che trova Pio IV è una città campestre disseminata ad ortaglie, scrive l'autore. Pio IV invece distribuisce incarichi e fa circolare i quattrini con liberalità, non pensa che a nuove fabbriche, a sistemare strade, alzare chiese e restaurare le porte d'ingresso, affida il compito di progettarlo a Michelangelo, lo fa ricostruire Porta del Popolo, eccetera, eccetera. Ma Pio IV è importante anche per un altro aspetto, perché fu lui il papa che fece concludere il Concilio di Trento, della cui attuazione sarà poi uno dei più ferventi protagonisti, il grande San Carlo Borromeo, che del papa era nipote. Nella stessa collana di Mursia troviamo un altro romano, questo a noi più vicino, Ciceruacchio, Angelo Brunetti, capopopolo di Roma, ed è di Claudio Modena. È pubblicato da Mursia, quindi 306 pagine, 20 euro. Ciceruacchio, al secolo Angelo Brunetti, era un popolano romano diventato agiato col commercio del vino, che si trasformò appunto in un capopopolo. Aveva salutato con grande entusiasmo l'elezione di Pio IX, sperando nell'elezione di un pontefice liberale. Brunetti era dotato di un forte carisma, di grande personalità, che lo portò a lambire la politica in quegli anni, fino a diventare protagonista delle giornate incandescenti del 1848, quando cerca lui di stabilire un canale diretto tra il Papa e il popolo, al quale sarà lui stesso ad annunciare la concessione della Costituzione. Sappiamo come andò a finire: furono mesi e anni molto agitati, fino alla proclamazione della Repubblica Romana e alla fuga di Pio IX. Mesi e anni decisivi di cui Modena attraversa le vicende descrivendoci la vita di Ciccio Roacchio e offrendoci uno spaccato dettagliato e appassionante. Anche in quelle ore più convulse Ciccio Roacchio svolse un ruolo importante, come dimostra questo episodio. Brunetti aveva anche il compito non certo facile in tempo di guerra di provvedere ai viveri. Il testimone del Venosta racconta che allorché l'esercito nemico ebbe quasi tutta cinta la città, essendosi steso da Monte Mario fino a Porta Salaria, riusciva difficilissima l'introduzione del bestiame da macello. Che fa Ciccio Roacchio? Con qualche buttero e qualche beccaio d'intima conoscenza salva le provvigioni tanto per cittadino quanto del combattente. Il testimone riporta anche un altro episodio. Egli si trovava di guardia al porto di Ripetta, quando intorno all'una di notte la sua attenzione venne attirata da nitriti di cavalli e rumori di carri. Stava per dare l'allarme, pensando che si trattasse dei francesi che erano a Monte Mario. Invece vide Ciccio Roacchio, che dalla parte del Clementino arrivava a tutta corsa con una selva di corni verso di noi. E così l'angelo di Roma, attraversando strade infernali, era riuscito a portare dentro i buoi necessari per gli approvvigionamenti. Il giorno dopo non si sentiva parlare che dell'accaduto. Non vennero risparmiate lodi e benedizioni all'uomo che si era sacrificato per il bene di tutti. Lui, Angelo Brunetti, avrebbe poi seguito Garibaldi in fuga da Roma dopo il crollo della Repubblica per essere giustiziato senza processo con il figlio tredicenne e altri sei patrioti dai soldati austriaci. Restiamo nell'Ottocento con un classico, La vita di Napoleone di Stendhal, pubblicato da Mursia, 238 pagine, 17 euro, curato da Beppe Benvenuto e tradotto da Giovanna Pira. Il libro uscirà postumo, ma sarà stato scritto quando Napoleone era già esiliato a Sant'Elena. Anzi, l'autore ci spiega che il testo è aggiornato al 1 febbraio 1818 e confessa di aver raccolto qui le frasi che gli sembrano adatte, proveniente da 200-300 autori, come scrive lo stesso Stendhal. In realtà l'opera è una biografia appassionata, molto simpatizzante per Napoleone, che viene considerato uomo dotato di capacità straordinarie e di un'ambizione rischioso, l'individuo dalle qualità più ammirevoli apparse dai tempi di Cesare, a cui anzi ci sembra superiore. È fatto, aggiunge Stendhal, per sopportare l'avversità con fermezza e dignità, piuttosto che sostenere la prosperità senza esserne sopraffatto. E qui lo scrittore francese si addentra nella descrizione anche delle grandi riforme civili di Napoleone, sottolineando per esempio il suo impegno contro le assurdità della burocrazia. Lo fa in queste righe che trovo di mai sopita attualità. Quale merito aveva questa amministrazione imperiale così rimpianta in Francia, in Belgio, in Piemonte, negli stati di Roma e Firenze? Erano regole generali e disposizioni coerenti dettate dalla ragione più saggia. Era il completo sradicamento di tutti i soprusi accumulati nell'amministrazione di ogni paese in due o tre secoli di aristocrazia e di un potere scaltro. Le regole generali dell'amministrazione francese difendevano solo due cose: il lavoro e la proprietà. Questo è bastato per far adorare quel regime. D'altronde, la decisione ministeriale che giungeva da Parigi dopo sei mesi, se spesso era ridicola per l'ignoranza dei fatti, era sempre imparziale. Ogni uomo pronto a lavorare era certo di fare fortuna. Per ogni oggetto si presentavano in folla dei compratori. La giustizia e il lavoro reso onorevole facevano perdonare la coscrizione e i diritti umani. Il Consiglio di Stato dell'imperatore si rendeva conto che il solo sistema logico era che ogni dipartimento pagasse il suo prefetto, il suo clero, i suoi giudici, le sue strade dipartimentali e comunali, e che si inviasse a Parigi solo ciò che serviva al sovrano, alle armate, ai ministri e infine alle spese generali. Questo sistema così semplice era l'incubo dei ministri. L'imperatore non avrebbe più derubato i comuni, e questo in Francia è il piacere più grande dei re. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo di biografie e adesso vi offro un libro che non è proprio una biografia, ma in fondo ci aiuta a capire non una vita, ma la vita del cinema americano, una biografia insolita, quella che ci offre un noto critico cinematografico, Oreste De Fornari, nel libro Classici americani, pubblicato dalle Mani, 368 pagine, 20 euro. De Fornari confessa di non essere un esperto di Stati Uniti, di non esserci neanche mai stato, ma ne conosce perfettamente il cinema, anzi lo mitizza, soprattutto per la produzione compresa tra il 1939 e il 1968. Quella, secondo De Fornari, è l'età classica del cinema americano, nella quale Hollywood sforna film mitici che davano l'idea di far parte di un sistema, di riferirsi alle stesse mitologie più o meno condivise dal pubblico, spiega l'autore. Questi film sono caratterizzati da un composto di glamour e understatement. In italiano, spiega, si potrebbe tradurre con fascino e minimizzazione, ma non rende così bene. C'erano generi più glamour, il musical, e altri più understatement, il bellico, ma i due ingredienti sono in fondo agli stessi generi, autori, film. De Fornari ce ne presenta tanti di questi film, di tutti i generi, molti in particolare sono western, che diventeranno quasi degli archetipi. Il western ai suoi occhi è il più mitico dei generi, il più autosufficiente, che sembra esistere solo sullo schermo, una sintesi di natura, mito, storia, dove c'è anche, aggiunge, il senso dell'orizzonte, dell'uomo che cerca il suo limite. E quindi troviamo qui tanti film, tanti registi. Allora ho chiesto a Luigi Paini, che scrive sul Sole 24 Ore di Cinema, di scegliere uno di questi film che gli è particolarmente caro. Magari potremo poi cercare il DVD per vedercelo con calma quest'estate. Ciao Luigi. Buongiorno. Dunque, il libro Classici americani di Oreste De Fornari è un po' un invito a diventare tutti archeologi in qualche modo, cioè i classici americani per chi ha 40-50 anni sono stati una parte importante della propria formazione culturale e ludica, invece per chi è più giovane si perdono in un mare magnum di immagini. De Fornari ci dà appunto questa guida, questa possibilità, perché è la guida non tanto di un cinefilo, che è una parola un po' abusata, ma di un innamorato vero di cinema. Gli piace, cioè il cinema americano è qualcosa che lo ha divertito, che lo diverte, che lo continua a divertire e che conosce benissimo. Allora, uno dei registi inevitabilmente più trattati da questo libro è John Ford, questo Omero del cinema americano, e nel suo tentativo di ridarci proprio la pienezza di questo cinema che ha creato dal 1939 al 1968 centinaia e centinaia di capolavori, De Fornari affronta ogni film da un punto di vista appunto dell'innamorato. Uno dei film che, rileggendo il suo libro, viene voglia di rivedere, che tutti abbiamo visto, ma viene voglia di rivedere in una maniera classica, ossia in una sala al buio, senza interruzioni, senza telefonini, senza rotture, è Ombre Rosse, che viene interpretato da quello che è l'alter ego molto spesso di John Ford, cioè John Wayne, The Duke, questo protagonista di tanti film che ha accompagnato nella sua vita John Ford dalla giovinezza fino all'età matura. Questa è un'altra caratteristica di Ford, praticamente la sua factory, la sua fabbrica di cinema era fatta molto spesso con gli stessi attori, con le stesse persone, ed è come se questo gruppo di amici continuasse nella vita, aumentando di età, a produrre storie sempre diverse, ma sempre con le stesse persone. Un pezzo di Ombre Rosse che resta completamente attuale e che è trovato molto divertente è quello all'inizio proprio del film, quando la diligenza si allontana dalla città e sta per arrivare nel punto in cui poi subirà l'imboscata dei Pelle Rosse. A bordo della diligenza ci sono diverse persone, e tra queste persone sale un banchiere. Il banchiere è in fuga, noi lo sappiamo, gli altri no, con il malloppo, cioè ha preso tutti i soldi dalla banca e se ne sta scappando. E il banchiere ovviamente è un mega ipocrita. Non dobbiamo dimenticare che questo film è ispirato a Bull de Suif di Maupassant, quindi si tratta di un western che però ha solide basi culturali antiche, e questo banchiere, proprio come gli ipocriti del racconto francese, a un certo punto si lancia in una filippica contro le persone, contro gli americani qualsiasi, proprio lui che è un ladro, e che dice, è divertente rileggerlo 70-80 60 anni dopo, il film è del 1939, io ho un motto che dovrebbe essere riportato da tutti i giornali: l'America agli americani. Il governo non deve immischiarsi negli affari, ma ridurre le tasse. Il debito pubblico ha raggiunto l'apice ormai, molte migliaia di milioni di dollari l'anno. Sapete di che cosa ha bisogno la nazione? Di un presidente che sia un uomo d'affari. È molto divertente perché John Ford, che spesso noi consideriamo, non lo consideriamo, ma per i luoghi comuni che si vengono inevitabilmente creare, si pensa che sia un brontolone legato solo ed esclusivamente a vecchi valori americani, in realtà si dimostra con questa frase una persona estremamente attenta, ironica e scherzosa. Un altro film che viene citato da De Fornari e che viene molto amato da De Fornari è L'uomo che uccise Liberty Valance. L'uomo che uccide che Liberty Valance è uno dei più grandi western della storia del cinema, un western da camera, si svolge quasi tutto in interni, in bianco e nero. Alla fine, quando si scopre chi è stato veramente a uccidere Liberty Valance, viene chiesto al direttore del giornale, e questo lo dico a te Salvatore, da ex direttore del Sole 24 Ore, gli viene chiesto di pubblicare la verità, e il direttore dice: quando la leggenda diventa realtà, stampa la leggenda. Qui siamo nel West. West Side Story ci introduce a un'altra insolita biografia, quella dedicata a Leonard Bernstein, che fu l'autore di quelle musiche. Il libro è di Barry Seltz, che è un politologo americano, e il titolo è Leonard Bernstein, vita politica di un musicista americano. È pubblicato da EDT, 234 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Francesca Cosi. Bernstein fu, oltre che un grande musicista e direttore d'orchestra, un intellettuale impegnato in politica, al punto da essere guardato con grande sospetto in certo momento della sua vita dalle autorità. Un celebre libretto di Tom Wolfe, che si intitola Radical Chic e di cui abbiamo parlato qualche mese fa in questa trasmissione, lo metteva alla berlina proprio per questa passione. E proprio questo libro, Radical Chic, viene giudicato in questo libro di oggi un palese insulto, perché secondo l'autore, secondo Selder, Bernstein ebbe un impegno serio nei confronti della politica, e per il quale pagò anche dei costi personali. L'autore ripartisce allora la vita di Bernstein in decenni per sottolineare appunto questa serietà dell'impegno civile. È un impegno che aveva molto insospettito le autorità all'epoca della caccia alle streghe, quando le sue posizioni politiche progressiste lo danneggiarono anche nella carriera artistica. E quindi troviamo in questo libro uno spaccato della cultura americana attraverso uno dei suoi massimi protagonisti, angosciato peraltro fino alla fine dei suoi giorni da un grande senso di colpa, ci spiega Seltz, quello di non essere riuscito a comporre un autentico capolavoro degno di stare a fianco dei grandissimi della musica. Un altro grande del Novecento, la cui vita fu condizionata dalla politica, è un grande sportivo, il cecoslovacco Emil Zatopek, presentato nel libro di Marco Franzelli, giornalista del TG1, Zatopek, la locomotiva umana, pubblicata da Bianco e Nero, 158 pagine, 14 euro, ed è illustrato da Umberto Mischi. Ricorda ai più giovani che Zatopek fu un mito dell'atletica, vittorioso alle Olimpiadi di Londra nel 1948 e poi autore di un'impresa strabiliante a Helsinki, dove vinse la medaglia d'oro nei 5.000, nei 10.000 e nella maratona, entrando nella leggenda dell'atletica. Zatopek era partito dalla fabbrica di scarpe Bata. Di sera frequentava una scuola professionale e proprio la fabbrica lo obbliga a partecipare a delle gare amatoriali nelle quali devono gli atleti fare praticamente pubblicità alle scarpe. Zatopek non ha nessuna intenzione di partecipare a queste corse, il padre non ama affatto lo sport e preferirebbe che il figlio si dedicasse ad altre cose, ma insomma queste corse è quasi obbligato ad andare. Siamo intorno agli anni 40 e lì Zatopek scopre che non soltanto vince le corse, ma di essere dotato di straordinarie capacità. Comincia a polverizzare i record, dopo le prime vittorie olimpiche diventa naturalmente un eroe. Nel frattempo il suo paese, cioè la Cecoslovacchia, è stata fagocitata dall'impero sovietico. Zatopek è fedele al regime, continua a correre, macinando altri record e altre vittorie, fino appunto al trionfo di Helsinki. Quando esploderà la primavera di Praga nel 1968, Zatopek si schiera con Dubček e pagherà poi questa sua scelta con la perdita del grado di colonnello e con la disoccupazione. Sentite quale fu il destino che gli capitò. Emil Zatopek perse il suo posto al ministero. Gli strapparono i gradi di colonnello e lo radiarono dall'esercito. Fu espulso dal partito e rimase disoccupato, come centinaia di migliaia di altre persone. venne spedito nelle miniere di uranio di Yakimov, nel nord della Cecoslovacchia, al confine con la Germania. Gli fecero fare di tutto: spingere i vagoncini con il minerale appena estratto, curare le operazioni di essiccazione e lavaggio, provvedere agli imballaggi. Tanta polvere nei polmoni, proprio come quando era giovane e lavorava alla Bata di Zlin. Lo richiamarono per un altro lavoro, spazzino. Quindi fu spedito in campagna a scavare buche dove piantare i pali della luce, finché gli uomini della normalizzazione capirono che era arrivato il momento giusto. Un funzionario mise sul tavolo un documento con il quale Emil avrebbe dovuto rinnegare il manifesto delle 2000 parole, ammettere i propri errori, fare pubblica autocritica. In cambio lo avrebbero lasciato in pace, avrebbe fatto l'archivista nei sotterranei del centro di documentazione dello sport a Praga, ed Emil firmò. Franzelli è molto efficace nel descriverci questa vita ricca e densa che ci fa riscoprire un grandissimo campione, protagonista involontario ma certamente partecipe dei grandi drammi del suo tempo. E a questo punto... Il confettino. Vite fantastiche e meravigliose troviamo in uno dei più bei libri per ragazzi, almeno io lo trovai così quando lo lessi da bambino, un classico di Laura Orvieto, Storie della storia del mondo. È un libro di 100 anni fa, io non ho 100 anni, lo lessi soltanto 50 anni fa, che torna adesso in una bella edizione del centenario con le illustrazioni di Cristina Storti Gaiani. L'autrice, una scrittrice milanese morta quasi 50 anni fa, ci presenta con un tono romanzato e leggero le grandi e immortali storie della mitologia classica. Sono storie eterne alla base della nostra civiltà, un'ottima lettura per i ragazzi, ma anche consigliabile per i loro genitori. E dell'Orvieto Giunti ci ripropone anche il libro che le aveva dato il primo successo nel 1909, Leo e Lia, illustrato da Vanna Vinci, che ci riporta un'Italia ormai remota, ma che ripropone nei suoi quadretti tante espressioni sempre attuali del rapporto tra madre e figli. Il libro è pubblicato da Giunti, 142 pagine, 16,50 €. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Pietro Lacorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti, arrivederci la settimana prossima.